cavallo vai. Su queste tragedie già tu lo sai come ci si torna indietro. Mica me mento, qua non tutti mentono chi sei. Vai avanti e vedrai che stringerai le mani giuste, le mani di qualcuno che ti potrà capire. Prima o poi gli stronzi se ne andranno e rimarranno soltanto gli eroi. Qua non ti vogliono tutti fottere, ti vogliono strafottere. Ecco perché quando esci devi mettere una mano nel culo dietro se ci riesci. Ecco perché non piglio pezzi esci da una vita, troppi nel culo me l'hanno messa perché in mano e negli occhi avevo disegni e una matita. Ecco perché la gente è ferita, pentita di quello che ha fatto, non ci ha guadagnato un cazzo. Ecco perché le vite dentro di me si consumano come fenice, bruciano. Ecco perché a digiuno non mi lasci stavolta. Adesso stavolta voglio mangiare il sushi sulla tua tipa e metterla sopra un altare e pisciare dove cazzo mi pare. Sta vita vissuta come un cane senza padrone, selvaggio e bastardo. E molesti e come quelli del dottore dietro al mio di dietro. Dicevano che non riuscivo a cagare e qualcuno mi infilava in mano nel culo, sapete, la santa di mia madre. Ecco perché quando giro, giro ancora con gli occhi e radar al sedere. Paraculistico il mio mestiere, funambolico e funambolistico questo scrivere. Le mie risate di questa gente che non capisce niente. Voce sottofondo e tu così distante. Rimani qui tra le mie grandi mutande, che c'ho il cazzo come quello di un piccolino. Ecco perché quando mi sveglio al mattino vorrei spararmi. Se teste di cazzo di ragazze si vogliono sposare, soltanto uno superdotato non capiscono un cazzo di ciò che l'arte e di ciò che l'arte ci ha dato. Un cuore così grande da salvare la gente, le good vibe nelle mani e in testa come te. Ritornello dopo ritornello come un deficiente. Good vibe a me, good vibe ai miei fra. Vorrei volare in Alaska dove fa sempre freddo, così la mia temperatura troverebbe un amico. Sangue congelato, rimango qui come un gelato da leccare per ste stronze. Rimango qui a mangiarmi le unghie da quanto sto nervoso. Al mattino mi devo prendere una lirica, se no non sto sereno. Ecco perché siero della verità di mio pa scorre tra le mie vene. Ecco perché quando faccio le cannucce qua suonano le sirene, perché qualcuno, e quel qualcuno non sono io, dovrebbe essere arrestato. Frustrato, cingolato, io ci passo sopra con un carro armato e faccio di tutti sti rap fottuti. Fottuti un purè, ecco perché ci faccio su sti rapper fottuti un purè. Rimango qui tra coi miei fra, i miei genitori, qualcuno che mi ama e qualcuno forse un giorno ancora mi amerà. Strike.